quella brilla in mezzo al cielo, la stella mia sei tu sul mio cammino, tu m'accompagni e segui il mio destino, tu sei la vita e la felicità. Dimmi che l'amor tuo non muore, che come il sale d'oro non muore. Ingannare il cuore, che il sogno mio d'amore per sempre sei tu. Cara, ti voglio tanto bene, non ho nessuno al mondo più cara di te. Ora, il sogno mio d'amore, vita del mio cuore, sei solo tu. Tanto bene, non ho nessuno al mondo più caro.